Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:07 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati a 800 24 00 24, questo il numero per intervenire in diretta, la mail vivavoce@radio24.it. Tre giorni fa Rosaria Capacchione, che è una giornalista del Mattino e per le sue denunce vive sotto scorta per il lavoro che fa, scriveva così da Castel Volturno: dal tramonto all'alba ogni notte è la loro, 12 ore di governo totale del territorio, una tirannia imposta con i Kalashnikov che possiedono a dozzine, la determinazione di chi abusa della cocaina. Sparano dove vogliono, quando vogliono, contro uomini e cose. Hanno ucciso 9 volte in appena 6 giorni, hanno lasciato il segno delle armi contro supermercati, abitazioni private, alberghi, caseifici, dalla Domiziana all'Agroversano, senza soluzione di continuità. Cronache da quella Gomorra descritta molto bene da Roberto Saviano, che ben conoscete. Giovedì scorso una mattanza a Castel Volturno, 7 persone uccise in pochi minuti, tra queste 6 immigrati, e pare tra l'altro sempre di più accertato, uccisi non tanto perché fossero criminali, ma colpiti per generare paura, terrore, per dire qui comandiamo noi, i casalesi. Viene da chiedersi lo Stato dov'è? Ovviamente questa è la prima domanda che si pongono tutti. Sono arrivati 400 uomini, in mattinata il Consiglio dei Ministri, dunque il governo deciderà se mandare altri militari. Viene da chiedersi anche se questa è la risposta giusta. Parliamo insomma di questo oggi. Lo facciamo tra l'altro in apertura, resterà con noi pochi minuti per impegni ovviamente importanti. Lo ringrazio e lo saluto il procuratore, il capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Franco Roberti. Buongiorno procuratore, benvenuto. Alle 9:10, Franco Roberti è a capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Procuratore, innanzitutto è vero che si profila questa ipotesi per cui si è colpito nel mucchio, si è colpito per generare terrore, no? Si sono colpite delle persone che potevano essere quelle o altre, l'importante era segnare il territorio in questo modo brutale? Sì, questa è una delle ipotesi che abbiamo fatto fin dai primi momenti dopo la strage, e che poi non è alternativa rispetto all'altra che si sia voluta dare una punizione a soggetti che non pagavano la quota dello spaccio di stupefacenti. Naturalmente le due cose si possono combinare e le piste investigative si articolano proprio lavorando su queste ipotesi. Ieri è stato preso uno dei presunti autori di questa strage. Le polemiche ci sono state perché questa persona era già ai domiciliari, era stata fermata qualche mese fa per imputazioni più gravi, ma il tribunale del riesame ha detto non ci sono le prove per tenerlo in carcere. Procuratore, lei che dice al normale cittadino che forse è un po' basito da questa situazione? Guardi, io voglio dire solo questo: la posizione di questa persona, che è stata fermata con un provvedimento d'urgenza doverosamente, ora è al vaglio di un giudice, quindi aspettiamo prima che si pronunci il giudice. Non entro nelle polemiche sugli arresti domiciliari. No, sa perché glielo chiedo? Perché è uscita anche l'altra vicenda di un altro delle persone che ricercate, forse a capo di questa scheggia impazzita dei casalesi, cioè Giuseppe Setola, che è stato sostanzialmente, era in carcere anche lui, gli è stato dato un provvedimento per una questione di salute, probabilmente era, si diceva, mezzo cieco da un occhio, è andato in clinica ed è fuggito e ora è ricercato. Beh sì, ma queste sono cose che dimostrano che a volte ci sono delle falle nel sistema, o il sistema non funziona perfettamente, ma sono cose che purtroppo sappiamo e segnaliamo da moltissimi anni. Senta, viene da chiedersi lo Stato dov'è? Lei che fa parte dello Stato ed è in prima fila come procuratore, se lo chiede, se la fa, se la pone questa domanda? No, perché io so che lo Stato c'è. C'era prima e c'è stato al momento della strage. Lo Stato c'è sempre con le sue forze di contrasto, con le forze dell'ordine, con la magistratura inquirente. Occorrerebbe più prevenzione, quindi occorrerebbe, e lo diciamo anche questo da molto tempo, maggiore presidio del territorio, maggiori controlli in funzione preventiva, quindi occorrono più forze, più investimenti e più strutture anche sul territorio per poter appunto controllarlo meglio e prevenire i delitti. Più forze vuol dire anche i 400 uomini arrivati ieri. Forse arriverà l'esercito. Secondo lei può essere anche questa una soluzione, che non è la soluzione con la S maiuscola, ma lo vede di buon occhio l'arrivo eventuale dell'esercito? Sì, certamente sì, non è la soluzione, come ha detto lei, con la S maiuscola, ma certamente sono provvedimenti che aiutano nel controllo investigativo del territorio, che ci consentiranno di dislocare più forze anche nella ricerca dei latitanti, quindi sono provvedimenti assolutamente positivi ed è molto importante che si sia scelto di mandare i reparti speciali delle forze di polizia. Questo io lo vedo come un segno molto importante e positivo. Lei, procuratore, ha detto lo Stato c'è e lo vede tutti i giorni, però a leggere, non so, qualche libro, ne ho citato uno famoso, ma non è famoso, ormai è diventato in tutto il mondo, quello di Roberto Saviano, Gomorra, a leggere anche le cronache di Rosaria Capacchione, del Mattino, a leggere insomma gli articoli, qualche dubbio viene sulla presenza forte dello Stato? Ma non c'è dubbio che la presenza dello Stato debba essere molto più forte nel territorio del dominato e controllato dalla camorra. Non c'è dubbio che vadano fatte scelte di priorità che non sono mai state fatte e che non vedo ancora essere fatte, anche se, ripeto, alcuni segnali positivi ci sono, come appunto la scelta di mandare le parti speciali alle forze di polizia. Naturalmente ci vuole molto di più, ci vuole ancora di più, ci vogliono anche delle scelte sul piano politico di selezione del personale, che poi diciamo spesso è risultato avere diciamo collegamenti o collusioni con la criminalità. Ecco, anche questo sarebbe una cosa molto importante, forse la cosa più importante. E guardi, su questo ho ancora due domande, ma l'ultima me la tengo proprio sul collegamento politico. Le chiedo innanzitutto, ieri in questa accorata lettera che Saviano ha scritto, lettera Gomorra pubblicata su Repubblica, si ricapitolano i 16 omicidi che sarebbero collegati a questo gruppo di fuoco in giro per il casertano, e scrive Saviano: qualsiasi paese democratico con una situazione del genere avrebbe vacillato. Qui da noi, nonostante tutto, neanche se ne è parlato, neanche si era conoscenza da Roma in su di questa scia di sangue, di questo terrorismo che non parla arabo, non ha stelle a cinque punte, ma comanda e domina senza contrasto. Sono terroristi paragonabili alla peggior specie, secondo lei, procuratore? Guardi, noi proprio in questo caso, con riferimento alla strage del giorno di mercoledì scorso, abbiamo contestato l'aggravante della finalità terroristica insieme a quell'aggravante della finalità mafiosa, perché, come diciamo anche da tempo, ci sembra che in queste azioni delittuose così eclatanti ci sia anche una componente terroristica, cioè la volontà di seminare panico nella popolazione per poter poi imporre il proprio dominio, la propria volontà e la propria repressione. L'ultima domanda è proprio sulle presunti legami con la politica, perché abbiamo visto quello che è successo con l'Espresso e con le inchieste, tra l'altro di alcuni giornalisti che sono stati anche perquisiti poi. Oggi il Riformista torna ribadendo quello che era già uscito sull'Espresso, cioè le accuse del pentito Gaetano Vassallo, che tirerebbe in ballo in maniera pesante, come uomo di collegamento tra i casalesi e la politica, l'attuale sottosegretario Nicola Cosentino, sottosegretario del governo Berlusconi, che è nato a Casal di Principe. Lei, procuratore, vuole dire qualcosa al riguardo? Assolutamente no, non posso e non voglio farlo, c'è un'indagine in corso, ma a prescindere dai casi particolari, il mio riferimento più in generale è a certi legami che da sempre hanno caratterizzato pezzi delle istituzioni, pezzi della politica e la criminalità organizzata. Questi legami dovrebbero essere decisi una volta per sempre. Io la ringrazio per essere stato con noi, Franco Roberti. Voglio ricordare il capo della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Insomma, parole importanti che ci ha detto anche sulla la presenza, per esempio, dell'esercito di uomini. Non è la soluzione, ma benvengano uomini e maggiore controllo del territorio. A questo proposito voglio salutare il direttore del Mattino, Mario Orfeo. Buongiorno direttore, benvenuto. Buongiorno a voi. Così come saluto Maurizio Braucci, che è uno scrittore napoletano, salve, sceneggiatore di Gomorra, tra l'altro, e anche curatore del libro Questa Corte Condanna, che è il libro nel quale viene riassunto, vengono raccolti tutti gli atti giudiziari del processo Spartacus, quello definito il processo del secolo contro i casalesi. Direttore Orfeo, io ho iniziato leggendo le sempre attente cronache di Rosaria Capacchione nel suo giornale, insomma, poi lo ricordiamo, l'abbiamo anche ricordato varie volte. Rosaria Capacchione vive sotto scorta, da anni racconta come si vive in quei territori. Forse sono arrivati 400 uomini, forse arriva l'esercito. Il procuratore Roberti ci ha detto che può essere anche questa una soluzione, anche se non la soluzione definitiva, ma insomma, ben vengano. Lei che dice? Ma anch'io credo che non ci sia una soluzione. Più iniziative possono concorrere a risolvere il problema, che è un problema molto serio e molto grave. D'altra parte lo stesso procuratore Roberti, circa un anno fa, io ricordo una trasmissione televisiva, lanciò un allarme serio e dettagliato sulla possibilità di una recrudescenza dell'attività criminale violenta del clan dei casalesi, cosa che puntualmente si è verificata. E io qui faccio una domanda a Roberti, ma come un po' tutti quelli che sono impegnati sul fronte delle forze dell'ordine, dell'investigazione della provincia di Caserta nella lotta ai clan, visto che questa, diciamo, c'erano segnali abbastanza evidenti che quello che è successo sarebbe successo, nel senso che l'attività della magistratura aveva fatto sì che fossero stati arrestati i parenti, addirittura le mogli di alcuni dei capi clan dei casalesi, che fossero bloccate alcune attività economico-finanziarie dei clan, che come sappiamo hanno esteso il loro, la loro attività e i loro interessi economici anche fuori dalla campagna, addirittura fuori dall'Italia. Dico, come mai non si è riuscito a prevenire tutto ciò? Perché c'è stato bisogno di una strage con 7 morti, titolari della sala giochi più i 6 immigrati africani, per mandare 400 agenti specializzati, per mandare probabilmente oggi altri 400 o poco più soldati? Questa, diciamo, è la mia domanda, che credo sia anche abbastanza inquietante. Perché una sottovalutazione della politica, noi abbiamo sempre l'abitudine, ma anche onestamente degli apparati investigativi, noi abbiamo sempre questo vizio di correre ai ripari, quando invece ci sono segnali che potrebbero aiutarci a prevenire piuttosto che intervenire dopo. A proposito di problemi o forse sottovalutazioni, il procuratore Roberti ci ha detto che sono falle del sistema che sappiamo esistono e ci sono, però i due casi della persona fermata ieri agli arresti domiciliari, perché il tribunale del riesame per le accuse più gravi non aveva trovato le prove, gli indizi di colpevolezza per tramutare il fermo in arresto, sostanzialmente in carcere, quindi scontava 2 anni e 8 mesi per una cosa minore. La seconda vicenda che io ho riepilogato e ricordato, quella di Giuseppe Setola, che è considerato il primo a capo di questo gruppo di fuoco che stava mietendo vittime nel casertano e che era all'ergastolo in carcere, è uscito perché con un certificato medico si diceva che doveva curarsi in una clinica a Pavia, appena arrivato ovviamente è scomparso. Sono falle del sistema, come dice il procuratore. Sì, chiamiamole falle, però come dire, dietro ogni falla ci sono anche probabilmente, anzi sicuramente, delle grosse responsabilità, perché appunto chi doveva controllare che questo Cesarano fosse ai domiciliari, chi doveva evitare che Setola scappasse, chi soprattutto doveva verificare che Setola non era cieco, tra virgolette, lo dico perché invece spara molto bene e prende sempre il bersaglio e quindi non doveva probabilmente uscire dal carcere, ci sarà stato qualche certificato di qualche medico compiacente, come peraltro abbiamo già verificato in altri casi. Insomma, voglio dire, anche Roberti faceva riferimento anche al rapporto tra la criminalità, l'infiltrazione, diciamo, politica nella criminalità, anche lì su questo bisognerebbe che anche i giornali facessero un po' di sana autocritica, perché già sui casalesi, sulla guerra ai clan dei casalesi, siamo stati in pochi a occuparci in tempi non sospetti, tanto è vero che la Capacchione e non altri sono sotto scorta, a parte Saviano e il PM Cantore, così come c'è stato parecchio silenzio recentemente da una parte, da cui alcuni giornali hanno, come dire, messo la sordina ai rapporti tra clan camorristici, alcuni esponenti politici di primissimo piano della zona di Caserta, dall'altra c'è una continua fuga di notizie di cui anche i magistrati dovrebbero, come dire, porsi il problema come è possibile, sì, queste notizie che rischiano poi di inficiare le inchieste, cioè, stesse. Le inchieste dell'Espresso, insomma, sta dicendo, quelle che sono uscite. Sì, sì, sì, i verbali che sono usciti sull'Espresso, che non, come dire, sono poi piano piano, si sono estesi un po' anche ad altri giornali. Mi chiedo come mai escano tutte queste notizie, se tutte queste notizie vengono fatte uscire per compromettere le indagini stesse, come mai i magistrati che le conducono non riescono a controllare questa fuga di notizie attraverso i loro più stretti collaboratori. Insomma, allora, questa, ci sono tanti, beh, insomma, quando si tratta un tema così, così importante, così vasto, ci sono tanti elementi, insomma, che sfuggono un po' il controllo e che magari non hanno una risposta certa. Io ricordo 800 24 00 24 per intervenire, tra l'altro ci sono già i primi ascoltatori. Prima però vorrei andare per un attimo da Braucci, come detto, insomma, chi ha visto il film Gomorra, chi, il libro l'hanno letto tantissimi, lo leggono all'estero. Io di recente ero in Spagna e vedevo gente in metropolitana in Spagna in nel libro Gomorra, ma questo avviene anche un po' in tutto il mondo ormai. Chi ha visto il film ricorda forse la scena di Marco e Ciro, due dei protagonisti, no? Che a un certo punto vanno proprio nel ghetto, così, a prendere o a cercare di prendere qualcosa da una serie di extracomunitari, droga, eccetera. Poi in realtà riescono a fuggire, riescono in maniera rocambolesca a rubargli, insomma, anche della droga. Braucci, insomma, quando vedere quella scena e vedere quello che è successo, anche se sono cose diverse, però fa impressione vedere quello che è successo a Castel Volturno. Sembrava una scena del film, o il contrario, forse lo film uno spaccato della triste realtà. Esatto, perché sì, in effetti il film è stato girato soprattutto stando lì, su quei territori, e, insomma, con un'idea anche documentaristica e di finzione, cosa di nemmeno troppo originale se vuole, ma comunque che riesce in qualche modo a stare un po' al passo con i tempi, con l'attualità. Ed è quel territorio, in questa faccenda particolare della strage, appunto, che secondo me è un elemento molto importante di valutazione, cioè quella fascia costiera tra il Golfo di Gaeta e il Golfo di Napoli, dove c'è un abbandono, dove non c'è nulla praticamente. L'unica cosa che c'è, e quasi per fortuna, sono gli immigrati, anche se irregolari, che occupano quello che è il frutto poi di una grandissima speculazione edilizia, di un caso che tra l'altro è trattato anche da Saviano nel suo libro, il villaggio Coppola, che attualmente è una zona in cui, appunto, ci sono i vecchi residenti e gli immigrati che in qualche modo presiedono, anche con cattivi affari, quelli che è quella che è, diciamo, una zona devastata dell'Italia su cui non c'è ancora nessun tipo di intervento, su cui poi bisognerebbe raccontare tante altre cose, perché è stata fatta da più grandi, importanti famiglie di costruttori della Campania. Roberti però dice lo Stato c'è, secondo lei c'è, oppure, come ha detto lei in un'intervista, in realtà questi mafiosi, questi camorristi si sentono un po' invincibili, un po' imbattibili? Ma in questo momento loro devono assolutamente dimostrare di essere imbattibili, lo si capisce, in una logica di guerra, perché di una guerra stiamo parlando, appunto devono mostrare che non sono finiti, perché è chiaro che poi particolarmente la camorra è un qualcosa di concorrenza, fatto di concorrenza continua, quindi ci sono altri clan, altre famiglie subito pronte a subentrare, probabilmente non soltanto italiane, eccetera eccetera, quindi in questo momento da parte loro c'è l'esigenza di riaffermare un controllo che è stato sempre su quel territorio. Che ci sia lo Stato, questo in che forma? Perché noi sappiamo che i camorristi, per esempio, hanno sempre agito all'interno di appalti che molto spesso erano riconducibili ad appalti pubblici. 800 24 00 24. Giorgio da Pisa, buongiorno. Buongiorno, volevo intervenire sui fatti purtroppo di sangue dell'altra settimana. Voi volete buttare tutti in politica e in razzismo, ma secondo il mio punto di vista non voi è chi? Altro. Voi chi? Voi giornalisti, noi, media, i tutti giornalisti. Quanti, no? Ecco, secondo me il fatto sta che c'è la vecchia camorra nazionale e la nuova camorra di colore. Per il momento vincono i camorristi nazionali, un domani ci sarà un ricambio, ci sarà una nuova camorra di colore. È un po' un po' di generalizzazione l'ha fatta, sì, no? Noi giornalisti di tutto, diciamo ce questo. Ce l'hanno tutti i nostri governi che vogliono far entrare chiunque nel nostro Stato, anche quelli che non hanno nessuna possibilità. Cosa fanno? Vanno a delinquere. Quindi è una lotta di potere tra camorra bianca e quella di colore, questo è il sunto. A parte insomma le considerazioni, noi giornalisti facciamo parlare, ha parlato il procuratore Roberti che è in prima fila nel cercare di combattere, quindi non vedo le generalizzazioni, anzi ci ha spiegato che una è delle ipotesi è proprio il contrario, cioè che si sia sparato per colpire, per terrorizzare, ma si sia colpito poi persone che in quel caso non c'entravano molto, assolutamente, anzi erano lì. Pare che nessuno di quegli uccisi avesse dei precedenti penali, tanto per essere chiaro, contrariamente a quanto si era detto all'inizio. Francesco da Caserta, buongiorno. Buongiorno, sono un consulente tecnico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Sì. E volevo parlare di un fatto che mi è successo durante la mia attività professionale. Mandato da un giudice in zona di Mondragona e sono stato minacciato per evitare che facessi quello che il giudice mi aveva incaricato di fare. E come la procedura prevedeva, sono andato fornito questa volta, la seconda volta, di carabinieri, custode giudiziari e tutto il resto. Il brigadiere che stava con me è stato minacciato con me a 3 centimetri, dicendogli precisamente: brigadiere, se non me li attacca vi piglia schiaffi in faccia. Che è abbastanza internazionale, l'abbiamo capita tutti. Il brigadiere non ha trovato niente di meglio da fare che non chiamare rinforzi. Sono arrivati 9 carabinieri del battaglione più vicino e la moglie di questa persona ha sobillato tutto il rione che stava là, facendo scendere in strada un sacco di gente. Meno male che i carabinieri si sono comportati bene, sono riusciti a tenere tranquilla la situazione e a farci andare avanti nel nostro lavoro, però in situazioni, dico, disastrose, perché sentivo un continuo vociare. Io, per parlare col mio custode giudiziario, per dargli informazioni dell'immobile, ero costretto a urlare, a fargli segni con le mani per dargli le indicazioni numeriche. Gente che mi viaggiava intorno da tutte le parti. Addirittura il custode mi ha riferito dopo che una persona mi era stata mandata dietro mentre ero all'interno dell'immobile per picchiarmi e quindi mi aveva messo di scorta un carabiniere specifico. Infatti io successivamente ho capito perché tenevo queste due ombre, un carabiniere e una persona. Insomma, dalla sua descrizione mi sembra che l'idea e la domanda che io provocatoriamente ho fatto al procuratore Roberti sullo Stato c'è, o viene da chiedersi dove sia. Insomma, e quando poi si vedono delle conseguenze a tutto questo, la persona che ha fatto tutto ciò non ha subito conseguenze. È stato chiarissimo, io la ringrazio Francesco per questa testimonianza proprio da Caserta. Voglio ricordare, forse si è perso un po' nel cellulare all'inizio, un tecnico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Grazie Francesco. 800 24 00 24 per intervenire. Stiamo parlando della vicenda dei casalesi, la mafia che a Gomorra insomma sembra dominare incontrastata, la strage di giovedì scorso, ricordiamo 7 morti tra cui 6 immigrati e la risposta dello Stato con 400 uomini mandati ieri, forse un migliaio di militari. Alle 10 c'è il Consiglio dei Ministri, il Governo dovrà decidere. Oggi ci sono con noi Mario Orfeo, direttore del Mattino, e Maurizio Braucci, scrittore e sceneggiatore del film Gomorra. 2 ascoltatori, Raffaele dalla provincia di Caserta, buongiorno. Buongiorno. Io volevo porre l'attenzione dei signori ospiti vostri. Allora, io dico solo una cosa, io sono un piccolo imprenditore che non ci sono più in provincia di Caserta, ma sono andato in provincia di Latina. Come si fa oggi, a distanza di anni, ormai è talmente radicato che è impossibile, mi creda, è impossibile distruggerlo. Si sa chi sono, si sa come si comportano, si sa come fanno, c'hanno case, appartamenti, ville, macchine importanti, non hanno mai lavorato. Lo Stato dov'è? Lei non lo sente, non lo vede, non lo percepisce, o lo percepisce meno forte o più debole di questa mafia? Percepito. Succede una sparatoria in un piccolo paese, per 10 giorni ci sono carabinieri, polizia, poi dopo tutto finito, tutto si torna alla normalità, succede dopo 3 mesi, si ritorna alla normalità, lo Stato è assente, ci sentiamo presi in giro dallo Stato, ma qualunque Stato, centrodestra, centrosinistra, ormai il clientelismo abituale di tanti anni a questa parte, non c'è più nulla da fare, c'è gente che non lavora mai, come fa a vivere, a camminare per stare con macchine importanti, vestite, importanti, ma come si fa? Ma se lo domandano, li conoscono, i carabinieri di ogni stazione, li conoscono, non fanno nulla. Grazie Raffaele. Direttore Orfeo, ha sentito lo sfogo insomma di questo, ma anche dell'ascoltatore di prima, tecnico del Tribunale di Caserta peraltro, poi quando si lavora sul territorio e si opera sul territorio i racconti, le esperienze sono queste purtroppo. Ma io non posso non dar ragione all'ascoltatore, certo. Raffaele, perché d'altra parte lui l'ha pagato sulla propria pelle, si è dovuto trasferire per poter continuare la sua attività di imprenditore, altrimenti sarebbe stato sicuramente vittima del racket, dei continui taglieggiamenti che in quella zona sono un'abitudine, lì pagano 2 volte le tasse, una volta lo Stato se le pagano e un'altra volta quelle sicuramente alla Camorra e ai casalesi. Ha ragione, lo Stato è assente, lo Stato non si vede, per questo dico io, arriviamo adesso poi i superpoliziotti, l'esercito, tutte cose per carità utili e che noi sosteniamo, arrivano in forte ritardo. Qual è la cosa che mi ha colpito di tutti questi giorni, ad esempio? Naturalmente la strage più di ogni altra cosa, perché ci sono state 7 persone morte, e su questo voglio fare una precisazione, noi fin dal primo giorno abbiamo parlato di vittime innocenti perché si era capito abbastanza presto che fosse così, diciamo che i killer, dopo aver fatto l'agguato alla sala giochi dove è morto un italiano, avevano fatto questa dimostrazione di forza e di potenza sparando all'impazzata contro gli immigrati africani. Ma dicevo, il giorno dopo questa strage, il giorno dopo quando, diceva Raffaele, per 10 giorni ci sono le forze dell'ordine di strada, poi spariscono. Ma invece già il giorno dopo, indisturbati, a mezzogiorno, alcuni killer di Casalesi sono andati a gambizzare, a ferire gravemente un imprenditore che non aveva pagato il racket. Quindi, Raffaele è stato fin troppo ottimista, insomma, mi sembra di capire. No, quello è stato proprio il segno della sfida allo Stato, la dimostrazione che loro hanno voluto dare, noi siamo più forti di voi. Ieri ve ne abbiamo ammazzati 7, oggi in pieno giorno, con voi mobilitati dopo quello, diciamo, il clamore che aveva avuto anche sui mezzi di comunicazione, quindi in tutta Italia, quella strage, siamo andati in un altro paese di vicino, Cesa, e abbiamo sparato a un signore che non si voleva sottomettere alla nostra legge, alla legge del pizzo. 800 24 00 24, Luca da Venezia, buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Alla vostra domanda che ritorna sulla presenza dello Stato, io per carità dal nord, quindi lontano dalla realtà, mi domando anche se c'è quella parte che ormai definiamo società civile, di gente normale a posto che ha voglia di battere un segno a difesa del proprio territorio. Io l'altro giorno sono rimasto basito su un'intervista realizzata proprio da quel territorio di una persona che rilasciava una dichiarazione dicendo qui da noi la camorra non c'è. Forse è bene che oltre allo Stato ci sia un tessuto sociale consapevole di un cancro che ha al suo interno e che come tale va estirpato, e che va estirpato dall'interno, non aspettando forze esogene che vadano lì sempre a trovare delle Luca soluzioni. Lei ha posto un problema sicuramente interessante al quale farò rispondere da Braucci, che è sceneggiatore di Gomorra, e c'è anche un motivo, perché insomma la domanda che ha posto lei, dov'è la società civile, ma perché c'è l'omertà, perché questi killer girano indisturbati, e poi il sunto della domanda nella lunga lettera che ieri Saviano ha pubblicato su Repubblica. Mi permetto solo di dirle, e questo perché mi sono tenuto una cosa che leggerò in chiusura, pubblicata oggi sul Riformista, straordinaria, a lei che dice: io dal nord che vedo questa cosa così distante, per cui non mi appartiene quasi. Non creda che non le appartenga, non lo creda davvero, perché basta leggere le inchieste e vedere che questa mafia, come tutte le mafie, hanno il controllo di tantissimi gangli finanziari di tutta Italia e non solo, anche del mondo. Ma a questo proposito, lei l'ha detto in maniera molto argomentata. Qualcun altro che manda messaggi, i classici, ma io me l'aspettavo questi messaggi, ma chi se ne frega se ammazzino tra loro? Lo sapevo e mi sono preparato la risposta, che non è mia, ma quella del Riformista, che tra poco vi leggerò. Braucci però vuole replicare alla questione che poneva Luca e poneva anche ieri Saviano. Ma la società civile, ma la gente, che fa? Fa in modo che indisturbati girino questi killer, non dice niente, c'è omertà, c'è paura? Queste sarebbero le nostre possibilità, che però ci precludiamo. Certamente l'aspetto cruciale secondo me è questo. È chiaro che lì, c'è particolarmente in quella zona, cioè sul litorale Domizio, c'è un ristagno, perché la gente ormai è anche un po' scoraggiata, ma anche dal vedere qual è il rapporto con le istituzioni, qual è il rapporto con l'imprenditoria, eccetera. Ricordo appunto che quella è una zona di grandissima di speculazione e di abbandono, poi di inquinamento, quindi che cosa ne può venire? Ci sono, sì, ci sono certamente associazioni, gruppi, la Chiesa che su quei territori resistono in qualche modo, molto spesso senza nemmeno tanto sostegno da parte delle istituzioni, e sarebbe interessante sentire loro. Certamente c'è ancora tanto da fare, certamente queste persone dovrebbero essere incoraggiate dalle istituzioni, però io temo, seguendo anche gli ultimi, per esempio, eventi, soprattutto per quanto riguarda le proteste contro la spazzatura, che società civile e politica in questo momento non vadano molto d'accordo, cioè che la politica fa un grande errore, poi tra l'altro, quello di non assecondare proprio in quei territori e sostenere la nascita di società civili, che, cioè di, insomma, di gruppi, di persone, di opinione, di movimento che in qualche modo anche a creare un tessuto più forte di resistenza culturale a quella che è la camorra, perché è vero quello che diceva prima l'ascoltatore, il controllo su quei territori è totale, e basta leggere appunto atti processuali come il processo Spartacus per vedere il tipo di collusione e di contatto che nei loro movimenti avevano e hanno i camorristi. Quindi sostenere la società civile sarebbe il passo fondamentale da fare, ma io temo che la politica non lo voglia fare questo passo, perché c'è qualcosa che teme anche in questa società. Tra l'altro, riguardante cosa fa la società civile, cosa fa la Chiesa, la Caritas, le associazioni? Oggi, interessante anche questo, lo sottopongo agli ascoltatori come riflessione. Giorgio Poletti, frate comboniano, dal 95 a Castel Volturno, lui che da tempo recupera tante ragazze dalla strada, dice: forse alle persone in un territorio del genere non si può chiedere di fare gli eroi. Tanta gente dice di avere moglie e figli, e anch'io, Poletti, se avessi un coniuge e dei figli la cui vita potrebbe essere messa a rischio da una mia azione, non farei l'eroe, davvero. Sebastian da Padova, buongiorno. Buongiorno, dottor Cruciani. Dica, sono Milan, ma va bene lo stesso. No, niente, volevo testimoniare, perché sono nigeriano, sono medico, ho vissuto là, da quella parte, diciamo, quando ero studente di medicina. Vi dico, guarda, io penso, come diceva il presidente che è intervenuto da Venezia, è proprio un cancro della gente che non riescono a guarire, perché se si vogliono levarsi queste gente, perché si conoscono tra di loro, non è che non li conoscono, lo sanno chi è, chi sono. Dove abitavo io, vi dico. Ma dove abitava, scusi Sebastian, dove? Abitavo ad Aversa. Ad Aversa, certo. Proprio vicinissimo, conosco quella zona là. Vi dico, le gente si conoscono, queste gente qua, che sono camorristi, li vedono anche sulla strada. Loro, a volte, mi chiedo, la polizia passa, non gli fanno niente, lo parcheggiano la macchina davanti alla strada, bloccano il traffico, entra un bar, va a prendere un appetitivo, lascia la macchina accesa, nessuno dice niente. Però dico, Sebastian, questo sicuramente, lei ha detto che è nigeriano, ci sono anche tanti articoli sulla cosiddetta mafia nigeriana, che sarebbe molto ben radicata. Allora, la mafia anche nigeriana, è impossibile che un nigeriano venga qua a fare la mafia se non c'è qualcuno che li supporta. Io vi dico, a me mi ricordo che mi sono stato avvicinato da qualcuno quando ero studente, mi dice: guarda che da voi c'è Mariana, perché non gli fa venire Mariana? Ho detto: guarda, io non so cosa stai dicendo. Per fortuna mia, appena che sono laureato, sono venuto qua, ho trovato subito il lavoro come medico, lavoro tranquillo. Ci sono, sì, è vero, ci sono tanti miei paesani che fanno qualcosa di genere, ma se lo Stato gli permette loro di farli, non possono farli, perché se qualcuno ti avvicina, dipende dalla famiglia, io dico. Perché questi ragazzi qua, se gli danno il lavoro, non faranno una cosa di genere. Oppure se fanno una cosa di genere, bisogna che lo Stato si metti i piedi là proprio, perché lo Stato non è che non li conoscono. Li conoscono tutti, no, ma su questo non ci sono dubbi. Ieri appunto Saviano faceva tutti i nomi e cognomi del gruppo di fuoco che sarebbe in questo momento libero per le strade del Casalese e che si sta macchiando di questi delitti. Luigi da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Sono Luigi, vivo a Bergamo e sono uno che è nato a Caserta, ha vissuto a Caserta e ha lavorato nel casertano, nelle campagne di Castel Volturno, di Villa Literno, eccetera. Lavoravo da agronomo e prima di raccontare il breve aneddoto volevo dirle che sono orgogliosissimo di essere un conterraneo di Roberto Saviano e Rosaria Capacchione, che le forze dell'ordine e lo Stato dia tutte le scorte possibili e immaginabili a questi due grandissimi personaggi. Io un anno fornì dei semi da orto specialistico di pomodoro ad una persona che aveva una trentina di ettari di pomodoro e coltivava là. L'aneddoto è che l'anno dopo, quando ritornai da questo personaggio che avevo poi seguito nella coltivazione del pomodoro da industria, la moglie mi disse che Antonio non c'era e disse: come mai? Ero pronto qui per dargli il seme, per fargli fare. Dice: perché è stato sparato, è stato ammazzato. Ecco, gli amici che oggi ho a Bergamo forse non capirebbero mai e non capiranno mai quali sono le condizioni alle quali noi, le persone che non come me purtroppo un po' vigliaccamente scappano da quelle zone, le persone che rimangono in che condizioni sono costretti a vivere. Lei è andato via per motivi di lavoro o perché è anche dettato da quelle condizioni? Allora, io sono partito perché al nord l'azienda con cui ho lavorato per tanti anni mi aveva chiamato per degli incarichi diversi, però l'ho vissuto anche come abbandonare la mia terra, come abbandonare quel posto, e purtroppo c'è da aggiungere che in ogni caso tutte le professionalità non sono, diciamo, no, è difficile che possano essere valorizzate, non è possibile vivere, sì, in posti dove non c'è la libertà di esprimersi al 100%. Grazie Luigi. Questo... Sentiamo anche Paolo da Napoli, buongiorno. Ah, buongiorno. Dica. Io sono Paolo, un piccolo imprenditore napoletano. Nulla, volevo dire che la necessità, oltre a rafforzare il controllo del territorio, è quella là di poter dare poi una mano ai magistrati o alle forze dell'ordine che poi riescono a operare sul territorio, a poter poi essere incisivi, quindi se vengono presi, se vengono effettuati dei sequestri, è necessario che ci siano leggi speciali che consentano nel giro di poche settimane di effettuare un processo, di convalidare un arresto, di far mettere paura le alternative che esistono di decine e decine di persone che non hanno lavoro in questa città, che non hanno futuro, non hanno passato, non ci mettono nulla a ritornare con una pistola in mano a sostituire il povero disgraziato che è stato arrestato. Quello che è stato arrestato dopo un mese, due mesi lo ritroviamo per strada perché i carabinieri sono bravi, i magistrati sono bravi, ma non hanno strumenti. Io vorrei vedere se il Parlamento riesce a fare delle leggi speciali, incisive, forti, che siano indirizzate esclusivamente a questo tipo di problema. Probabilmente non lo farà mai, perché purtroppo sappiamo che anche il Parlamento ha delle grossissime dei grossissimi inquinamenti, eccetera. Sì, insomma, le connivenze con la politica. Direttore Orfeo, perché io mi sono tenuto questa del Riformista che leggo in chiusura. Direttore, molti ci scrivono anche, ma già vivere lì è da eroe. Colpisce ad esempio questo frate Comboniano che ha detto: forse anch'io, se avessi famiglia, insomma, fare da eroe, come fare eroe. Però l'appello forte di Saviano a scuotere la società civile, c'è stato anche un grande dibattito sulla società civile napoletana, di Napoli, campana, dov'è? Sì, intanto la società civile napoletana, la città di Napoli e quella della provincia di Caserta sono due situazioni abbastanza diverse, quindi diciamo non paragonabili tra loro. Questa polemica c'è stata già ai tempi della guerra di Camorra, più l'ultima guerra di Camorra a Napoli, quella di Scampia, la faida di Scampia, dove anche lì veniva il ministro degli interni e diceva: senza la collaborazione dei cittadini napoletani questa guerra non si vincerà. Adesso lo ha detto Maroni in un'intervista al Mattino qualche giorno fa, l'ha detto Saviano ieri con l'articolo su Repubblica. Attenzione però, qui scambiamo spesso, mi pare che scambiamo la causa con l'effetto, perché se la gente non collabora, se la gente resta chiusa in casa e anche se vede passare il boss sul viale principale del paese non lo denuncia, questa non è la causa di quello che sta accadendo, ma è l'effetto del fatto che lo Stato non dà le garanzie che il cittadino comune richiederebbe. Certo. Ma ha ragione il padre Comboniano, ma credo che un po' tutti noi, diciamo in qualche modo, ci troveremo difficoltà. No, ma è chiaro, ma è condivisibile, voglio dire, la sua esperienza umana, questo sicuramente. Io a tutti quelli che hanno scritto, ma chi se ne frega se si ammazzano tra loro, oppure quelli che ci hanno detto, come Luca, in maniera molto articolata, io vivo al nord e lo vedo così lontano, questo problema. Antonio Pascale, oggi sul Riformista: una pubblicità sociale girata in Colombia mostra una modella che tira una striscia di coca. Mentre la polvere sale su per le sue narici, un uomo in qualche parte del mondo muore, ucciso in uno dei soliti regolamenti di conti. Questa pubblicità esprime una giusta chiamata in correità. Non possiamo proclamare a pieni polmoni la nostra lotta alla criminalità organizzata se poi facciamo uso dei loro prodotti. Ma questa tematica, ovvero la nostra responsabilità essendo i consumatori finali nella filiera della droga, ancora non sembra chiara. Dove vanno infatti i soldi accumulati con la droga dai camorristi, dall'andrangheta? Qualcuno sospetta che questi guadagni vadano per esempio nei titoli di Stato. Pensateci bene, lo Stato paga ai grandi gruppi criminali interessi legali sui soldi che non sono legali, oppure parte di questi soldi vanno in immobili. Non solo è un investimento sicuro, ma c'è la possibilità di fare grandi bolle speculative immobiliari. Pensiamoci bene, se abbiamo difficoltà nel trovare casa perché queste costano tanto, ebbene, magari è perché stanno girando i soldi accumulati grazie al consumo di cocaina con le quali si è comprate queste case. Ecco, pensateci bene tutti coloro che pensano che questo sia un problema lontano, confinato in una piccola terra in campagna. Ci sentiamo domani. Viva Voce.